Diritti e rovesci, in collaborazione con Adico, Associazione Difesa Consumatori. Secondo tema di questa settimana, in questo ponte del primo maggio con l'Associazione Difesa Consumatori, affrontiamo un tema delicato, purtroppo sempre più di attualità, è quello del gioco d'azzardo. Ben trovato al presidente dell'Adico, Carlo Garofolini. Ciao Carlo. Ciao Mirko, e un saluto a tutti gli ascoltatori. Gioco d'azzardo, in particolare per i giovani, purtroppo anche i minorenni, sempre più colpiti da quello che rischia di diventare un vizio anche per loro. Sì, questa volta a fare l'indagine nazionale sul gioco d'azzardo dei minori è stata una società italiana, Medici Pediatri, è un osservatorio nazionale sulla salute dell'infanzia e dell'adolescenza, dove sostanzialmente è emerso come almeno 800.000 bambini e adolescenti italiani di età compresa tra i 10 e i 17 anni giocano d'azzardo, ovvero il 20% di quello che è un po' il dato nazionale. Giocare d'azzardo, quindi non semplicemente giocare con il computer online su internet, ma giocare soldi veri. Si parla proprio di giocate d'azzardo e di soldi, addirittura di paghetta settimanale per i più giovani, ma se il dato che può saltare all'occhio, questo 800.000 bambini e adolescenti tra i 10 e i 17 anni, risulta sicuramente un dato significativo, è anche vero che l'indagine ha fatto emergere come anche quelli tra i 7 e i 9 anni, addirittura 400.000, hanno scommesso o hanno fatto qualche scommessa o hanno partecipato in qualsiasi forma d'azzardo. Tra l'altro il termine gioco è paradossale, fa a pugni con quello che poi in realtà crea, cioè la dipendenza. Il gioco dovrebbe essere puro divertimento e svago, qui invece ci sono danni psicologici e anche danni economici che, se cominciano a coinvolgere anche gli adolescenti, dopo tutti gli adulti che ne soffrono, davvero c'è da preoccuparsi. Sì, certamente. Un altro aspetto che questa indagine ha fatto notare è come sostanzialmente i genitori non parlano di questo fenomeno, di questi rischi che la salute può subire sugli effetti di questo gioco, proprio per un fenomeno di dipendenza. Oggi dobbiamo ricordare a tutti che al pari del fumo le giocate d'azzardo creano una dipendenza tale che da soli è difficile pensare di uscirne se non con l'aiuto di qualche specialista, e certamente la prima colpa di tutto questo fenomeno è sicuramente da ricercare nelle famiglie e nei genitori, dove se da un lato il 90% dichiara che se si accorgesse la dipendenza dei figli interverrebbe, dall'altro scopriamo che oltre il 51% delle famiglie intervistate sostanzialmente non utilizza nessuna precauzione e nessun filtro sui PC, che è la prima fonte di gioco d'azzardo da parte dei ragazzi. Chiaramente non vedremo minorenni attaccati alle macchinette nei bar, perché questo non è possibile nemmeno per legge, ma in casa, paradossalmente, anche se è scritto nelle pubblicità che il gioco è vietato ai minori di 18 anni, chiaramente se non ci sono dei filtri tecnici, ma anche dei filtri umani di controllo adeguati, chiunque può giocare e cadere in questa rete. Sì, purtroppo se non si corre delle precauzioni anche quando si è a casa, certamente sarebbe il primo grosso filtro, certamente poi scoprire quella che è una conseguenza di un utilizzo improprio di un computer, se certamente rischia di diventare troppo tardi. Ed è anche vero che se da un lato siamo qui che commentiamo comunque quelli che sono dei dati preoccupanti, oggi sostanzialmente bisogna anche evidenziare come mancano e manca soprattutto da parte dello Stato quelli che sono certe precauzioni obbligatorie che chi gestisce queste giocate dovrebbe adottare, anche un semplice dicitura come si utilizza oggi nei pacchetti delle sigarette. Bisognerebbe un attimino essere più incisivi anche nell'informazione, ecco, questo volevo dire. È vero che proprio la normativa statale ha introdotto l'obbligo negli spot pubblicitari, sia televisivi, radiofonici che cartacei, di scrivere che il gioco crea dipendenza, che è vietato ai minori di 18 anni, ma diciamo questo è un puro formalismo, si sta rivelando, perché poi le pubblicità in realtà paradossalmente adesso sono anche aumentate, cioè ce ne sono di più che rispettano questi canoni, però c'è un maggiore battage per potenziare e pompare queste dipendenze. Beh, ormai è vero, purtroppo siamo consapevoli di questo, e al di là di quello che è stato qualche timido tentativo, sostanzialmente interventi concreti oggi non se ne rilevano. Si parlava di adottare delle precauzioni su certe anche sale o macchinette d'azzardo rispetto a quello che sono le scuole e altri edifici pubblici, o limitare la pubblicità in certe fasce d'orario rispetto ad altre, ma sostanzialmente tutto questo è rimasto un po' cantato nell'aria. Certo è che se noi stiamo parlando di PC e stiamo parlando anche di pubblicità, poi scopriamo che con qualsiasi smartphone, che ormai un po' tutti i ragazzi hanno, si può anche accedere a queste forme di gioco, per cui siamo sempre al punto di partenza. Purtroppo sì, e qui certo c'è il ruolo dello Stato, chiaramente, che deve intervenire con le normative più restrittive, ma qui abbiamo già detto altre volte e denunciato, non l'abbiamo fatto solo noi, che lo Stato è un po' complice, perché da una parte pompa anche per incassare, dall'altra poi deve curare spendendo magari 10 volte tanto per curare e cercare di recuperare le persone. Quindi lo Stato ha un ruolo, il ruolo primario dovrebbero avercelo le agenzie educative, cioè la famiglia e la scuola. Sono d'accordo con te, anche perché noi se non cominciamo da un'educazione verso questi bambini, verso questi ragazzi, poi scopriamo come queste lobby sinceramente dettano un po' le regole anche a livello legislativo. Pertanto secondo me la prima precauzione che si dovrebbe fare è proprio quello che l'indagine ha emerso, è cominciare a veramente a parlare anche in famiglia, allo stesso modo con cui si cerca anche di spiegare che sigarette e alcol fanno male. Quindi su queste cose ci dovrebbe essere veramente una sinergia da parte di tutti. E poi, come purtroppo bisogna evidenziare, hai detto bene, mancano quelli che sono gli interventi seri per aiutare le famiglie a fare il compito degli educatori. E purtroppo i ragazzi ne diventano vittima anche del gioco d'azzardo. Ringraziamo l'Adico, il presidente Carlo Garofolini. Ci risentiamo la settimana prossima con altri due argomenti, altre due storie da raccontare. Grazie Carlo, buona giornata. Grazie a te, mi ricordo un saluto a tutti gli ascoltatori. Diritti e rovesci. In collaborazione con Adico, Associazione Difesa Consumatori. Per riascoltare questo programma, vai su bluradioveneto.it.